Si può presentare, per favore? Certo, io mi chiamo Jessica dal Sas, abito a Folgaria da sempre, sono nata a Folgaria, sono la madre di due figlie, una di 17 anni e una di 10 anni e il mio lavoro è questo, io sono praticamente una commerciante, nello specifico potrei dire una barista e pubblici esercizi, non so se sapete cosa sono praticamente dei locali che sono dediti anche a un servizio pubblico. Vuol dire che comunque ci possono essere dei servizi diversi da quelli che si danno solo del vendere, della vendita o del consumo. Secondo lei si vive di sogni? Ciao. Allora, sì, si può vivere di sogni, però secondo me la cosa principale è la concretezza della vita in ogni esperienza che tu fai. Che tu sia una madre, che tu sia un padre, che tu sia uno studente, che tu sia un lavoratore, che tu sia un professore, comunque il sogno esiste sempre, però che fa la differenza alla fine la concretezza nella vita, seguire i propri sogni, però senza metterci fatica. La prima cosa che vi dico, fatica, sudore e impegno, non si arriva da nessuna parte. Si deve far fatica per essere genitori, per essere dei lavoratori, si deve far fatica per essere dei buoni professori, si deve far fatica per essere dei buoni studenti, giusto? E questo è quello che poi alla fine può far arrivare ad un sogno, credo che sia difficile, senza questo impegno. Buongiorno, e come ha iniziato la sua attività? Se era di famiglia o l'hai aperta lei? No, io allora queste attività l'ho ereditata dalla famiglia, ho fatto comunque un liceo, mi sono iscritta anche all'università, l'ho frequentata, poi delle vicissitudini familiari hanno fatto in modo che delle scelte fossero fatte prima della fine dell'università e devo dire la verità, io sono comunque contenta di quello che sto facendo, se avessi finito il mio percorso scolastico all'università. Forse avrei avuto delle soddisfazioni diverse, però sempre nell'ambito di quello che sto facendo, perché quello che sto facendo mi piace e il consiglio a chiunque dovesse intraprendere questo lavoro è di dire che comunque l'importante è avere anche un titolo di studio. Qualsiasi lavoro tu faccia nella vita, l'importante è avere un titolo di studio e la passione, l'unica cosa che salva tutto alla fine, no? Comunque questa è un'attività di famiglia che porto avanti comunque già da 30 anni ormai, perché io ne ho 50 e ho iniziato a 22 anni, 21. Quale facoltà universitaria? Mi ero iscritta a giurisprudenza, ho fatto liceo scientifico e mi sono iscritta a giurisprudenza. Come vede il suo futuro? Il mio futuro, il mio futuro lo vedo innanzitutto come mamma di più, vi dico la verità. Perché comunque sono in un'età dove le mie ragazze hanno ancora bisogno di me, perché una ha 17 anni, l'altra ne ha 10 e lo vedo come mamma. Poi come imprenditrice lo vedo comunque, purtroppo, vi dico la verità, legato a una routine, nel senso che comunque il lavoro a una certa età diventa poi una routine. Possono esserci degli stimoli nuovi, però sono sempre un po' sporadici, sono degli flash, no? Nella vita alla fine. E il futuro io lo vedo e spero di avere un futuro sereno, un futuro dove tutti quelli che sognano è di stare un po' più tranquilli, perché questi lavori qua, ragazzi, come il mio, questo soprattutto non vede giorni liberi, non vede un Natale, non vede una Pasqua, non vede un sabato, una domenica libero, cioè siamo sempre comunque in piena attività. Ecco, forse questo è quello che vedo nel mio futuro, un po' lasciare delle ore di lavoro e provare ad avere una vita più, non dico normale, perché per me la normalità è questa, una vita più legata alla quotidianità della settimana normale, cioè magari una domenica libera mi farebbe piacere ogni tanto. Io se posso fare un'altra domanda, ma lei si è sentita obbligata dai genitori a No, continuare l'attività? no. All'inizio abbiamo collaborato e è stata una scelta un po' indirizzata, come ti ho detto, per una vicissitudine familiare che si è presentata in quel momento. Io ho dovuto aiutare i miei genitori perché c'era successo comunque un evento particolare in famiglia e io ho dovuto aiutare i miei genitori. Però devo essere molto onesta, probabilmente con esperienze diverse, cioè nel senso che ci sono rimasti un paio di sogni, quello di finire l'università, di fare un anno all'estero. Ecco, questa sarebbe stata una cosa che a me sarebbe piaciuta molto. Però il lavoro che sto facendo l'ho scelto e lo sto facendo perché mi piace, perché credetemi, un lavoro che non ti piace non lo puoi fare per sempre. Cioè, sono già 30 anni che sono qua e alla fine o ti piace o se no. Qual era il sogno che aveva da bambino? Da bambina? Mi sarebbe piaciuto diventare una dottoressa da piccola, pensa, da piccola, però da piccola proprio. Poi, e viaggiare. Ecco, è sempre stata una cosa che mi è piaciuta e i miei genitori questo però me l'hanno data come possibilità. I primi anni che lavoravo qua, anche se ero maggiorenne, non ricevevo dei gran stipendi, però mi dicevano vai se vuoi, viaggia. E allora quella è una cosa che mi ha gratificato molto. Ho fatto dei bei viaggi. A posto di prendere lo stipendio, che magari poi sai com'è, alla fine lo spendi per delle cose meno. Beh no, ma figurati. Invece loro mi dicevano: ti do quello che ti serve, però viaggia intanto. E dopo quella è stata una cosa che mi è piaciuta molto. Ha mai subito degli stereotipi durante il lavoro? Se sì, quali? Essendo donna Sì. in questo, nell'ambito del tuo lavoro, no? Sì. Donna che gestisce Allora, un'attività folgorante. no, forse perché io ho sempre avuto la fortuna di avere un carattere più o meno piacevole, però un po' forte. Cioè, nel senso che non mi sono mai lasciata troppo influenzare dalle cose. Anzi, qua a Folgheria devo dire che c'è molto rispetto per le donne che sono in attività e per le donne in generale. Spesso mi confronto con la mia più grande e abbiamo parlato proprio delle donne allenatrici nell'ambito dello sci alpino. E gli ho detto, beh, dai, ma sarebbe bello se. Mi fa, sì, peccato che nello sci alpino al momento, a livello nazionale, donne allenatrici non ce ne sono neanche ora. Allora, vedi, cioè, alla fine poi gli stereotipi ti arrivano in famiglia comunque, da una parte o dall'altra. E quello che io dico sempre anche a lei, ma gli ho detto, tu sempre devi essere forte, devi essere sicura di te stessa, poi si spera che le nuove generazioni abbiano un'apertura mentale diversa. E che una donna abbia la stessa possibilità di affermarsi e di fare quello che fa. Anche perché comunque, guarda, voi avete comunque esperienza a casa. Una mamma è una donna, lavora e fa anche tutto il resto. Perciò imparate voi maschietti subito a pensare che sono brave le donne, vero? E vanno anche comunque rispettate sempre. Ok, grazie. Dimmi. Le piacerebbe che una delle due figlie portasse avanti questa attività? No, cioè nel senso no, non è che non mi piacerebbe, anzi, ti dico la verità, con i tempi che corrono adesso, certi lavori secondo me andranno rivalutati, nel senso che comunque è tutto talmente precario che se 20 anni fa uno aveva un pensiero che era legato più a un lavoro con delle ore determinate, il tempo libero, ecco, io sarei più contenta che cambiasse il sistema in Italia, cioè venisse rivalutata di più l'idea della famiglia e della donna in questo senso. Nel senso che comunque il tempo libero avesse un valore diverso. Un valore diverso nel senso che comunque anche come donna decidi di fare questo lavoro, come mamma poi tu abbia comunque delle agevolazioni, no? Perché se guardiamo all'estero, io vedo anche delle esperienze in Norvegia, in Svezia, ci confrontiamo ogni tanto con persone che magari ho avuto il piacere di conoscere in Svezia e no, in Svizzera. Ad esempio, le donne non fanno mai dei lavori oltre le ore 16 o 17 in certi ruoli, perché comunque il ruolo della famiglia è quello più importante, no? Nel senso che gli danno la possibilità di avere dei part-time, chiamatemi come volete, degli orari che possano dedicarsi completamente alla famiglia e anche la scuola in questo, perché io sono una anche che è convinta che anche la scuola andrebbe un po' più ridimensionata nel senso degli orari per la famiglia, per non a Folgheria, però. Se guardate in tante città, vanno il sabato, vanno, invece c'è bisogno di ritornare in famiglia. E questo è perché mi hai fatto la domanda pensando a due figlie femmine, ok? Cioè nel senso che il futuro di una donna deve vedere, secondo me, soprattutto e rivalutare le ore lavorative e inserendole come un valore aggiunto proprio economico per la società se lo investono nella famiglia anche, giusto? Questo ecco. Poi loro faranno quello che vogliono, spero. Poi se un giorno dovessero venire qua, non vengano, però spero che facciano quello che desiderano. Hanno comunque momentaneamente anche la più piccola e la più grande degli obiettivi diversi. Ma i primi anni del quando, cioè i primi anni che lo gestiva lei, ha avuto delle difficoltà, ha usato qualche strumento per agevolarsi, a strategia? Allora, devo darti una risposta molto semplice e umile. Io tecnologicamente sono ignorante. Cioè, sono una di quelle persone che non riesce proprio con la tecnologia, a dei problemi seri, ok? Però quando ho iniziato io 30 anni fa non era questo l'agevolazione. Le agevolazioni che ho usato sono stati fare dei bei corsi che aveva dato la provincia, che era di formazione, dei bei corsi di formazione, e quelli mi hanno aiutato molto. Mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto capire come si potevano... Anche se ti sembra che il lavoro che faccio io sia sempre quello e tradizionale, alla fine guarda che ogni anno, ogni giorno, devi integrare, devi fare, devi... ecco, una delle, negli ultimi anni, una delle cose che pesa, ad esempio, in un'azienda come la mia, sono tutti i corsi di formazione, non solo professionali, ma anche legati proprio alla legge, obbligatori, di tutti quelli che sono gli alimenti, alle catene alimentari, e questo per salvaguardare il cliente. Poi la sicurezza sul lavoro, anche se vi sembra che non ci siano dei rischi, dobbiamo comunque fare tanti corsi legati al primo soccorso, e secondo me sarebbe interessante riuscire prima o poi a portarlo anche come un attestato, no? Invece che solo l'esame, anche questo, la quotidianità. Hai mai pensato di mollare questa attività per fare un altro lavoro? Sì, perché non avrei saputo quale forse in quel momento. Ogni tanto si sa quando, però. Bisogna essere onesti con se stessi. Quando tu hai queste idee, devi pensare quando le hai. Io le ho quando sono sfinita. E io penso che ogni persona, quando è sfinita, umanamente, farei qualcos'altro, no? Che tu sia un professore, che tu sia un commerciante, che tu sia una barista, che tu sia anche una mamma, ogni tanto ti voglia di mollare, di che mai la sa che si arrabbia. Cioè, allora, secondo me è importante nella vita porsi sempre questa domanda: quando te la fai? Te la fai quando non stai bene perché soffri per quello che stai facendo, o te la stai facendo solo in un momento in cui sei veramente stanco e poi arrivi a casa e dici no dai, anche oggi me lo sono chiesta, però probabilmente è solo perché ero proprio stanca. E secondo me avere due valvole di sfogo nella vita è importante, sia nel lavoro che insomma alla fine. Infatti lo sport è sempre una cosa, per ricondurla, se non mi avete fatto una domanda, nella quale la nostra famiglia crede tantissimo. Lo sport o comunque qualcosa di alternativo, che sia la musica, che sia... Però ci vuole qualcosa che ti aiuti a fare qualcosa per te stesso, di qualcosa che ti rilassi, che ti piaccia. Di più di quello che è il lavoro. Ok, grazie. A te. Quali strategie ha messo nel campo, nel suo lavoro? Come azienda noi abbiamo sempre mantenuto molto ferma la tradizione. Non abbiamo voluto essere troppo moderni nel proporre le cose, perché comunque alla fine chi viene in montagna, secondo me, cerca anche la tradizione. Okay? Chi viene in vacanza cerca anche qualcosa di tradizionale. Non sempre questa cosa innovativa come in città, c'è un po' la rincorsa a essere pronti a dare qualcosa di nuovo, vengono anche perché vogliono vedere qualcosa di tradizionale. Di mio personale, forse io amo... anche, non li voglio chiamare, non so, i decori, però comunque mi piace anche, non so, servire uno spritz in un certo modo per parlare del bere, e nelle varie festività decorare, mettere queste cose legate alle stagionalità, ecco. Ho mai pensato di aprire in un altro posto, oltre che star solo qua? Quello, un'altra parte. Quello sì. Quello sì, ma non perché non mi piace Folgaria, perché la amo tantissimo, ma perché il lavoro stagionale ha dei pro e dei contro. Nel senso che noi abbiamo dei periodi di lavoro estremamente impegnativo, che tra l'altro coincidono, io come mamma te lo dico, con quelle che sono i momenti liberi della mia famiglia. Invece nelle grandi città hanno un po' un... cioè, non so, la domenica sono chiusi, hanno una cadenza regolare della gente, si possono regolare meglio con il personale, che da noi adesso è un grossissimo problema, questo delle stagionalità dei dipendenti. Solo per quello, perché secondo me vivere a Folgaria è bellissimo. Sai perché? Per un senso di semplicità di tutto quello che si fa, della famiglia, facendo tutte le cose con tanta semplicità, tipo, non so, andare a scuola a piedi, fare il corso di nuoto da soli, andare a catechesi da soli, questo è bello per una famiglia. L'autonomia che si può dare a un figlio in un paese non ha prezzo, secondo me, però. Ha un messaggio da dare ai ragazzi? Ai ragazzi? Ai ragazzi io ne avrei tanti messaggi. Da mamma o da imprenditrice, cosa vuoi? Da tutti e due. Da tutti e due, grande. Allora, da mamma vi consiglio comunque di studiare, perché qualsiasi cosa andiate a fare nella vita, un titolo di studio è importantissimo. Che tu faccia il barista, il cameriere, il meccanico e anche l'agricoltore, se tu hai cultura, comunque cultura, che non vuol dire avere un titolo di studio, comunque della cultura, ti aiuta in tutto, perché potrei essere una persona che ha dei progetti diversi, no? E ti sai proporre in modo diverso. Perché guarda che anche qua al bar ti chiedono un'informazione qualsiasi, darla in un modo, anche a livello turistico, no? È una cosa. Per esempio, ecco, io ho notato che manca molta conoscenza, cioè poca conoscenza del territorio, no? Ecco, io per esempio punterei anche su questo, sulla formazione dei ragazzi, la conoscenza del territorio. Ti fermano per strada, ciao, scusami, mi sai spiegare come fare ad arrivare alla Foria del Lupo? Mi sai spiegare come fare la gita al Forte Belvedere? Cioè, guarda che c'è gente di 40 anni, 50, di Folgaria, che non gli sa rispondere come arrivare. Ecco, questo secondo me è una forma di cultura. Cioè, non ti sto dicendo di fare l'ingegnere nucleare, però di avere una formazione. E le lingue? Le lingue. Parlate le lingue. Fatele bene. Perché le lingue in un paese turistico sono fondamentali e comunque sono fondamentali in tutto, perché quando ti muovi sei più sicuro, no? Cioè vai a farti anche un'esperienza da qualche parte, ti sai proporre in modo diverso, non sei mai in imbarazzo forse, no? Che è come dire, scusa, non so parlare. Però studiate, studiate, che è importante. E scegliete delle scuole, comunque, secondo me, che vi diano una formazione completa. Qualsiasi percorso scegliate, non sceglietelo perché pensate di non essere all'altezza. Sceglietelo perché avete una passione, ma fatelo seriamente. Seriamente vuol dire andate a fare i pasticceri, studiate e interessatevi a tutto.